Etter Radio Onda Rossa 87.9 in modulazione di frequenza. Inutile dire della situazione surreale in cui tutti quanti ci troviamo, compreso il trasmettere in questa situazione per quanto riguarda prove tecniche di trasmissione. Infatti la scorsa settimana abbiamo saltato sia Disordere sia questo spazio. In prospettiva, come dire, si vive al momento e alla giornata. www.ondarossa.info è il sito internet per connettersi via streaming con questa emittente, la quale è un indirizzo di posta elettronica, ondarossa@ondarossa.info. Domani comparirà sul sito della radio, sulla pagina Facebook Prove Tecniche di Trasmissione /Disorder. Comparirà appunto il podcast di questo programma. Oggi è 25 marzo 2020. Saluto Maya dalla Sardegna come Nicola Locci Stigmate, Lucia Cagliazza in arte Lupsi a Udine, da Frosinone Laura Spirit Crusher. Un saluto anche il Franco Berletta dal Piemonte, da Alessandra se non erro, qui da Roma Daniel Elmbow Records, da Milano Isetual, a Roma Lucia che salutiamo. Si torna in Piemonte, Urnus Island, Rico Cerrato, tutti quanti, Alessandra, Asti, tutti da quelle parti. Dalla Puglia invece c'è Giovanni Lisi come Cordis Cintis Serpente, di cui uscì